vita corre sopra un filo, ogni giorno in bilico per te. Sei la lama del rasoio, senza te soltanto il buio per me. Voglio il tuo odore qui, voglio il sapore di te. Se devo perdere tutto, lo perdo, ma poi lo ritrovo in noi. La mia vita corre sopra un filo, sento sempre di perderti ancora. In pericolo ogni ora, è un'angoscia straordinaria, ho paura per me. Voglio i tuoi occhi qui, voglio le labbra, le mani. Se devo perdere tutto, lo perdo, ma poi corre sopra un filo, l'amore agli stessi occhi tuoi. Ho paura che nel buio tu scompaia, nei miei sogni nient'altro che noi. E voglio i pensieri tuoi, voglio le angosce, i problemi che hai. Se devo perdere tutto, lo perdo, ma poi lo ritrovo in noi, in noi. Tutto lo perdo, ma poi lo ritrovo in noi.